Rotta? Di fronte a Palazzo da Curzio, sul lato est di Piazza Maggiore, sorge il Palazzo dei Banchi, realizzato tra il 1565 e il 1568 da Jacopo Barozzi, detto il Vignola. Si tratta in realtà di una sorta di facciata scenografica con cui, a metà del XVI secolo, si decise di mascherare il retrostante mercato di mezzo, via Clavature e Pescherie Vecchie, e allo stesso tempo dare una copertura ai banchi dove fin dal XII secolo operavano i cambiavalute, ovvero, in sostanza, i predecessori dei moderni banchieri. Le arcate fanno parte del cosiddetto pavaglione, con cui viene indicato il porticato di Palazzo dei Banchi e dell'Archiginnasio, così chiamato perché le arcate in pietra sostituirono i padiglioni in tessuto sotto i quali operavano i cambiavalute. Le contrattazioni avvenivano su un banco che, in caso di insolvenza, veniva letteralmente fatto a pezzi dai funzionari comunali. Da qui il termine bancarotta per indicare il fallimento di un'impresa. Cominciò proprio come cambiavalute uno dei personaggi di spicco del Medioevo bolognese, quel Romeo Pepoli che nella prima metà del 300 arrivò ad accumulare una fortuna tale da essere riconosciuto come l'uomo più ricco d'Italia, con un capitale di 75.000 scudi e rendite di oltre 125.000 fiorini annui. Figlio di un modesto cambiavalute che verso la metà del 200 si guadagnava da vivere facendo piccoli prestiti agli studenti, Romeo iniziò il cammino verso la ricchezza con l'intuizione che sarebbe stato ben più redditizio prestare denaro senza distinzione di rango o mestiere. Fece prestiti alle comunità contadine e persino agli altri cambiavalute, fino a finanziare il comune stesso, aumentando così la sua influenza politica presso le istituzioni, nonostante, almeno inizialmente, non ricoprisse alcuna carica vera e propria. Per tutelarsi da coloro che non erano in grado di estinguere il debito, il Pepoli pretendeva come garanzia i loro beni immobili, finendo per accumulare terreni, case e negozi in ogni parte di Bologna e d'Italia. Dopotutto, i cittadini erano così oppressi dalle tasse che finivano per chiedere prestiti soprattutto per onorare i debiti con l'erario. Romeo Pepoli era così avido che arrivò a intentare una causa contro una donna accusata di avergli sottratto una manciata di noci. Con il suo atteggiamento spregiudicato, finì ovviamente per farsi parecchi nemici, i più agguerriti dei quali furono gli Azzo Guidi, i Galluzzi e i Gozzadini. Gli oppositori di Romeo Pepoli erano chiamati Maltraversi per via dello stemma araldico della famiglia Gozzadini, sicuramente la più ostile, caratterizzato da uno scudo diviso in due da una banda di traverso. I Pepoli venivano invece comunemente chiamati Scacchesi, perché il loro stemma assomigliava a una scacchiera che nelle intenzioni doveva ricordare un abaco, l'antenato della calcolatrice. A volte il destino è beffardo. Non fu la sua attività di usuraio, non furono i sotterfugi politici e neppure l'ostentazione delle sue fortune a provocare un'insurrezione popolare contro di lui, bensì la decisione di intromettersi nella triste storia d'amore tra Jacopo da Valenza e Costanza dei Zagnoni. Tutto ebbe inizio il giorno in cui gli occhi di Jacopo incontrarono quelli di Costanza e fu amore a prima vista. Un sentimento che fu da subito contrastato dal padre della ragazza, che non avrebbe mai accettato che la figlia si accasasse con uno studente fuori sede, squattrinato e idealista. Tutto il contrario, insomma, del buon partito che auspicava per la figlia. Ma l'amore, si sa, non conosce le regole della ragione, ma solo quelle del cuore, che a volte portano ad azioni avventate. Jacopo e Costanza organizzarono una fuga con l'aiuto dei compagni di studio del ragazzo. Una fuga che, purtroppo, finì con la loro cattura dopo soltanto un giorno passato insieme. Di fronte alla famiglia di Costanza, Jacopo giurò di non averla compromessa. L'unico desiderio che lo aveva spinto a un atto così sconsiderato era di passare un po' di tempo con la ragazza che amava. Ma la legge parlava chiaro. La ragazza era stata disonorata e la pena per colui che l'aveva screditata agli occhi della comunità era la morte per decapitazione. Romeo Pepoli prese a cuore la vicenda di Jacopo e Costanza e tentò di intraprendere una trattativa con il magistrato, schierandosi in favore dei due innamorati. Tuttavia, il suo intervento fu inutile. Jacopo fu condannato a morte e Costanza fu imprigionata nella sua stessa casa. Fu così che a Bologna si verificò la prima vera rivolta studentesca. Dopo l'esecuzione di Jacopo, studenti e docenti occuparono le piazze della città per protestare. Non solo. Oltre a manifestare il loro dissenso, decisero di lasciare in massa l'università per trasferire le attività didattiche a Siena, un evento che si sarebbe rivelato catastrofico per l'economia bolognese. I maltraversi approfittarono della situazione per manipolare abilmente il sentimento della piazza, accusando Romeo Pepoli di aver perorato la causa di Jacopo e Costanza per tornaconto personale. Fu così che la notte del 17 luglio 1321 la sua casa fu circondata da una folla inferocita. Romeo Pepoli riuscì a darsi alla fuga insieme ai figli attraverso un passaggio segreto, ma gli inseguitori gli furono addosso nel giro di pochi minuti. Quando tutto sembrava perduto, decise a gettarsi alle spalle delle manciate di monete creando un eccellente diversivo. Gli inseguitori si fermarono infatti a raccoglierle, rinunciando così ai propositi di cattura. Soltanto l'intervento del Papa, che fece ampie concessioni agli studenti, riuscì a riportarli a Bologna, mentre il padre di Costanza fu esiliato a vita. L'occasione fu festeggiata con la costruzione della chiesa di Santa Maria delle Grazie presso Porta San Mamolo, nella quale venne posta la cosiddetta Pietra della Pace. Una pace pagata a caro prezzo, sia per i due innamorati, sia per la famiglia dei Pepoli. Romeo, infatti, dopo ripetuti tentativi di rientro a Bologna, fu catturato da Bertrando del Poggetto, che lo inviò alla corte di Avignone per rispondere di un'infinità di accuse di stampo politico e giudiziario. E lì morì l'anno successivo. La più grande